Linee d'ombra di Matteo Caccia. In quel caso il libro bruciato è un simbolo, no? Le vite delle persone erano rimaste così, forse vive ma con questa bruciatura interna, con un segno nell'anima che non se ne sarebbe andato mai più. Avevo 10 anni, la tele trasmetteva un telegiornale e ricordo la faccia di mia madre davanti alle immagini. Un uomo in divisa stava lì a comunicarci che adesso lo Stato erano loro, i militari. Storia di golpe militari e di uomini illuminati in una puntata che si intitola Caudillos. Santiago del Cile, 11 settembre 1973. L'esercito cileno assalta il palazzo presidenziale e prende il potere. È l'inizio della dittatura militare di Augusto Pinochet. Le elezioni cilene del 1970 eleggono presidente Salvador Allende, leader della coalizione di sinistra Unidad Popular. La vittoria è però malvista dagli USA. Gli statunitensi temono che il Cile possa trasformarsi in uno stato socialista e allearsi con l'Unione Sovietica, la superpotenza che contende agli Stati Uniti il controllo dello scenario mondiale. A partire dall'autunno del 1972, il paese è scosso da una serie di scioperi, promossi dalle frange più conservatrici della società e sostenuti dai finanziamenti dei servizi segreti statunitensi. In Parlamento, la maggioranza di Allende si assottiglia per l'uscita dei cristiano-democratici che si alleano con l'opposizione di destra. La tensione cresce. Il 29 giugno 1973, il colonnello Soper guida carri armati dell'esercito verso La Moneda, il palazzo presidenziale. Il tentativo di golpe fallisce, ma indica che anche le forze armate si stanno schierando contro Allende. E un conto è sentirla così, questa storia, un conto è sentire un documentario che parla di quel golpe, che parla di Salvador Allende, della sua uccisione, parla di Pinochet, e invece un altro è raccontarle dall'interno. Noi abbiamo questa fortuna, abbiamo la fortuna di chiedere storie di vita, di storie legate a una linea d'ombra, e la protagonista, l'autrice della prossima storia ci racconta esattamente quella linea d'ombra lì, quell'ombra durissima e scurissima che è stata caratterizzata dalla dittatura di Augusto Pinochet, nella quale lei si è trovata invischiata. Era una ragazzina e vedeva i suoi genitori come si dovevano comportare, vedeva i cambiamenti della società e ce li racconta con la sua stessa voce in un racconto che è davvero febbrile. E poi andiamo da un'altra parte, andiamo a raccontare l'altra faccia della medaglia, la faccia che ha un nome ben preciso, che è Roberto Kozak, che è quello che è considerato unanimemente lo Schindler del regime cileno, perché è l'uomo che grazie alle sue capacità diplomatiche riesce a liberare moltissime persone, moltissimi prigionieri politici che dal Cile scappavano e arrivavano anche qui in Italia. Insomma, due storie bellissime viste da dentro di un periodo cupissimo che ha tracciato veramente probabilmente una linea di confine all'interno non solo del Cile ma di tutto il nostro pianeta, di tutto il nostro sentire civile. Insomma, mettetevi comodi, abbiamo un sacco di storie bellissime oggi. Benvenuti a Linee d'Ombra. Avevo 10 anni, la tele trasmetteva un telegiornale e mi ricordo bene ancora la faccia di mia madre davanti alle immagini. Un uomo elegante, come l'avrebbe definito mia nonna materna, in divisa, stava lì a comunicarci che adesso lo Stato erano loro, i militari, e che l'ordine sarebbe tornato. Sì, ricordo bene la faccia spaventata di mia madre. La vita però per me continuò uguale, nella geografia quotidiana non cambiò quasi niente, almeno all'inizio. Ma se faccio uno sforzo, devo ammettere che non era tutto così normale. C'erano sempre riunioni di lavoro a casa con colleghi dell'università di mia madre, che tutto d'un tratto non ci furono più. E mi fu spiegato che non ci si poteva riunire dopo una certa ora e più di 2 persone per volta. Meglio se non per strada, ovvio. Quelle persone erano come zii per me o come amici. Frequentavo normalmente le riunioni sdraiata sul tappeto con un cuscino e ascoltavo le questioni dell'università. Per me, tutto sommato, era un'infanzia allegra e spensierata. Quando sei piccolo, ti adatti, non te ne accorgi. O te ne accorgi, ma ti accontenti. Ma a pensarci bene fu un crescendo. Non saprei dire se era perché anch'io crescevo ed ero più consapevole, oppure se davvero le cose stavano peggiorando. Ma fatto sta che non vidi più alcune persone e che la domenica non andavamo più dalla nonna, perché pare che mia madre non fosse molto allegra e questo rattristava troppo tutti quanti. Allora lei non voleva più sentirsi dire della famiglia, che parlava sempre delle stesse cose e che era meglio non parlare di politica. Politico era il fatto che qualche collega perdeva il lavoro, che il suo lavoro era a rischio e alcuni amici se ne andavano dall'Argentina e c'era preoccupazione per le loro vite. Ho visto qualche volta piangere mia madre dopo una telefonata. Lei mi spiegava che un amico non c'era più. All'inizio era perché era ammalato. Più tardi, crescendo, capii che se n'era andato senza poter salutare né fare le valigie. Oppure, forse era proprio scomparso. Più tardi dovetti ascoltare dei discorsi tipo: se la mamma non torna dopo la facoltà, tu devi correre dalla zia o dallo zio, non dalla nonna, perché lì potrebbero venire subito a prenderti. Allora ero già alle medie e a scuola non succedeva nulla, tranne il fatto che avevamo un'insegnante moglie del ministro dell'educazione e che dovevamo cantare l'inno tutte le mattine durante l'alza bandiera, insieme all'inno della scuola e all'inno a Sarmiento. La disciplina era totale, la divisa e le scarpe erano tutte uguali, tutto perfetto. C'era una tensione nell'aria molto forte e non so esattamente quando ho cominciato a capire cosa voleva dire scomparso. Non so quando è stata la prima volta che ho saputo che c'erano gli aerei della morte piuttosto che i campi di concentramento. Questa cosa qua non so collocarla esattamente in un momento. So che sapevo dall'inizio che c'era qualcosa che non andava e che quella gente non erano i buoni, erano i cattivi. Questo a 10 anni lo sapevo tutto. In quei giorni era arrivata a casa una ragazza con il suo bebè. Dovevamo accoglierla e non dire niente e non far sapere che compravamo il latte in polvere e soprattutto non far sentire il pianto del bambino. Lei poi se ne andò, ma non ho saputo mai dove né come finì la sua storia. Poi a casa era anche venuto a vivere un insegnante della facoltà di belle arti, perché allora ero già abbastanza grande per capirlo, la sua vita era in pericolo. L'esercito lo cercava e se lo trovavano sicuramente l'avrebbero ammazzato. Quindi, come sempre, io non raccontavo nulla a nessuno e tutto continuava apparentemente in quella specie di normalità. Come quando, passeggiando con il mio cane, come tutti i giorni, nel parco dell'ospedale vicino a casa mia e con il gelato in mano, vidi un camion di militari scaricare una ragazza incinta, ammanettata, e portarla dentro forse per un controllo o forse per partorire. Come vedete, era una normalità ammalata, spezzata da incursioni di un mondo altro, che intuivo ma che non riuscivo a comprendere. Crescevo insieme alla violenza e poco a poco ne conoscevo metodi, sparizioni, paure, torture. A un certo punto capitava di tornare a casa la sera, dopo la spesa, di vedere la strada chiusa da camion militari, con soldati armati fino ai denti e riflettori che illuminavano a giorno la casa di un poveraccio che non sarebbe più tornato a casa. L'ho visto un paio di volte, ma se la prima non aveva molto significato, la seconda e il tempo portarono tutte le spiegazioni, le ragioni e le conseguenze di quell'azione. E se la conoscenza non è retroattiva, sulla memoria non saprei come spiegare che adesso provo paura per quella volta, per quei momenti. Così quegli anni passammo la frontiera del Cile verso l'Argentina, con i nonni e un disco di Violetta Parra sotto il sedile. Sapevo solo che a un altro cantante cileno erano state tagliate le mani, quindi ce l'avevano anche con artisti e cantanti. Anche la musica era vietata. Erano state vietate le canzoni dei Queen, di tanti artisti nazionali e The Wall dei Pink Floyd. Quindi, pensando al disco sotto il sedile, si può dire che eravamo letteralmente seduti su una bomba. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on down. Get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where? Nel frattempo sapevo che qualcuno fuori dal paese seguiva la nostra storia, raccoglieva dati, denunciava le violazioni dei diritti umani, rendeva pubblici i dati e numeri del genocidio che stava accadendo lì da noi. Una vecchia amica di scuola di mia madre era attivista di Amnesty International in Spagna ed era una specie di speranza. E un collega era stato portato in salvo in Svezia, come rifugiato politico, proprio grazie ad Amnesty. Sapevo che prima o poi ne avrei fatto parte. Nella apparente normalità di quegli anni, qualche libro non si poteva più leggere. Un elefante occupa molto spazio. Era un titolo per bambini vietato, perché gli animali facevano una specie di sciopero nel libro. Così mi trovai una notte con pile di libri in mano e mia madre che mi diceva di andare in silenzio a buttarli poco alla volta nel sistema di incenerimento, quello per la spazzatura del nostro edificio. Non so quanti libri di mia madre abbiamo buttato nell'inceneritore quella sera e immagino che sarà stato come bruciare una parte di sé, del suo albero genealogico, perché lì c'era una storia, non solo una libreria. Il giorno dopo il portiere ci disse che stranamente l'inceneritore era intasato di libri e ci raccomandò di buttarne meno per volta per non rischiare di attirare l'attenzione con troppo fumo. Anni dopo, nell'83, mentre festeggiavamo il ritorno alla democrazia, mia madre decise di tirare fuori i libri che aveva nascosto, perché non riusciva proprio a bruciarli, ed erano stati messi dietro la cucina di casa. I libri erano tutti rovinati, macchiati, distrutti. Ci siamo abbracciate, abbiamo pianto. E ci siamo dette che non sarebbe mai più capitato, che avremmo fatto qualsiasi cosa, ma un'altra dittatura no, non poteva avere spazio. Ho saputo dopo che Il Piccolo Principe non c'era nelle librerie, che il centro editore dell'America Latina era scomparso, era la casa editrice dell'Università di Buenos Aires, e una scuola all'avanguardia, che aveva una biblioteca meravigliosa, era stata chiusa, che non si potevano leggere Marx, né Erasmo, né Stendhal, né Pablo Neruda. Terribile, perché mia mamma aveva libri ovunque in casa e molti erano anche dei nonni, cioè i libri erano sempre stati una cosa per noi molto importante. Lei leggeva tantissimo, era vorace, cioè magari iniziava un libro e finché non lo finiva non se ne staccava, quindi magari andavo a letto, la trovavo la mattina finendo il libro che avevo iniziato la sera, quindi un amore sconfinato per i libri. Ho anche saputo che il 30 di agosto dell'80, in un campo fuori Buenos Aires, un gruppo di camion aveva scaricato 1,5 milioni di libri. Un gruppo di militari aveva acceso un fuoco con della benzina e così era sparito il patrimonio culturale di un'intera generazione. Sono passati 40 anni. Ancora oggi qualcuno cerca la propria identità, qualcuno cerca un nipote, figlio di un desaparecido. Ancora oggi rimangono le assenze e qualcuno non riesce a dimenticare questa storia. A 13 chilometri di distanza può capitare di aprire Facebook e vedere che un ragazzo di 35 anni ha trovato sua nonna, i suoi zii, dopo 35 anni orfano delle sue radici. Una dittatura è questo, e infinitamente altro. La dittatura non è purtroppo appannaggio di un paese sudamericano, ma di tanti paesi ieri e oggi. Oggi sono qui, lontana, ma non impotente. In un'altra parte del mondo qualcuno sta bruciando libri, oscurando siti e soffocando le parole, ma noi lo sappiamo, lo urliamo, denunciamo, perché non accada mai più, perché la libertà di opinione è uno dei diritti più importanti, fondanti della nostra attività e quella di tutti gli attivisti. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Ormai lo sapete, se siete degli ascoltatori di Linea d'Ombra, sapete che delle volte succede una cosa molto chiara, ed è che le storie personali si incrociano con la storia, cioè con la storia più grande, quella che viene definita la storia con la S maiuscola, che in questo caso è una storia molto importante, è un pezzo molto importante della storia di questo pianeta che ci riguarda da vicino, riguarda tutti, riguarda noi, non solo perché molte persone da là sono venute a stare qua, ed è il caso di Joe e adesso ne parleremo, ma perché quella cosa lì è successa in Italia, è successa là e può succedere davvero dappertutto. E quindi è il motivo per cui io sono molto felice di avere Jo qui con noi dopo che ci ha mandato la storia. Ovviamente possiamo parlare con lei. Pronto? Ciao Jo, buongiorno. Ciao, ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno e grazie. Come stai? Bene, bene, bene. Bene, emozionata. Senti, io avrei un sacco di cose da chiederti e cerco di metterle tutte in fila. Facciamo un attimo di ordine nella storia proprio. Di che anni parliamo e di che paese parliamo e quindi di che dittatura? Nel senso che mi pare che a un certo punto dal Cile voi passate in Argentina, dico bene? Sì, in realtà diciamo la storia si svolge in Argentina. Okay. In Argentina negli anni, fino agli anni 70, quindi 1976, okay, fino con la dittatura durò fino all'83, okay, quindi la dittatura militare, il golpe militare, che in realtà ha una matrice uguale a quella cilena, ma noi diciamo il racconto è tutto in Argentina, io sono di origine argentina. Certo, quindi non parliamo di Pinochet, ma parliamo di Videla, giusto? Parliamo di Videla, Jorge Rafael Videla, sì, esattamente. Esattamente. Senti, tu lo racconti già nella tua storia, però davvero mi stupiscono alcuni tuoi passaggi, ad esempio quando parli della normalità della violenza, cioè il fatto di abituarsi ad esempio a passeggiare nel parco e vedere una ragazza incinta che viene trascinata giù da un furgone militare e portata in un ospedale per, boh, forse per farla partorire, tu dici. Quando tu vedevi cose di questo tipo, ad esempio le raccontavi a tua mamma, ci pensavi, certo, oppure ormai era diventata una specie di cosa che, vabbè, succede, facciamo finta di niente? No, lo raccontavo, cioè ne parlavamo parecchio a casa, solo che probabilmente io lì ero piccola, andavo in giro col cane il pomeriggio, ma avrò avuto 11 anni, 10 anni, quindi ovviamente arrivavo a casa e raccontavo, erano eccezioni, erano situazioni che io capivo che erano brutte. È chiaro che all'inizio probabilmente è molto difficile, sono passati tanti anni, però è chiaro che all'inizio veniva raccontato quello che si poteva raccontare a un bambino di 11 anni. Senti, tua mamma insegnava all'università, dico bene? Sì, okay. Sì, insegnava all'università. Lei, sì, al di là di questo racconto che ci fai del bruciare i libri, poi in realtà, come dici, in fondo non li aveva nemmeno bruciati tutti perché non riusciva a farlo, lei aveva preso delle precauzioni rispetto al fatto che vedeva dei suoi colleghi sparire oppure quando avete accolto questa ragazza? Cioè lei faceva in modo di proteggersi oppure questa cosa poteva succedere comunque a tutti? Cioè potevi vederti arrivare i militari in casa e ciao. Allora, questa cosa succedeva per pochissimo, bastava una delazione, bastava un sospetto, bastava un modo più libero di comportarsi, non so, durante le lezioni, bastava pochissimo perché venissero a cercare le persone, cioè infatti sono scomparse 30.000 persone, quindi non erano 30.000 guerriglieri, c'erano 30.000 anche docenti, certo, universitari. Prendeva delle precauzioni, sì, certo, cioè si stava il più possibile silenzio, cioè si tentava di mantenere un certo silenzio, riservo sulle cose che si facevano. Lei poi era attiva, lei ha protetto qualcuno, quindi e ovviamente non lo poteva raccontare a nessuno. Non si poteva dire neanche ai vicini di casa, si tentava veramente di farlo, tant'è che addirittura dopo che è avvenuta, dopo la, diciamo che è arrivata la democrazia, lei queste cose non le raccontava mai, non diceva mai ho protetto qualcuno. Ma nemmeno dopo? Proprio no, nemmeno dopo, per paura che qualcuno potesse ancora essere in grado di raccontarlo in un eventuale ritorno di un'altra dittatura, cioè era talmente traumatico che queste precauzioni erano rimaste anche dopo, soprattutto sulle cose più gravi, no? Come proteggere qualcuno. Anche perché è durato, insomma, dal 76 all'83, sono 7 anni, quindi sì, è un periodo lunghissimo. Certo, quando finisce? Come finisce? Cioè quando ritorna la democrazia, c'è una festa, c'è la gente per strada, cioè esattamente cosa accade? Vengono indette delle elezioni? Sì, io mi ricordo quando hanno fatto la prima chiamata alle elezioni, io non potevo votare perché avevo ancora, se io non mi sbaglio, 17 anni. La cosa che io mi ricordo è che eravamo tutti per strada, io ero uscita in uno stato di euforia fuori controllo quasi. C'erano questi bigliettini delle elezioni che mi ricordano in una carta color rosino, azzurrino, verdino, quella carta un po' brutta, uso mano, ed era pieno di questi biglietti, ma pieno, e li lanciavamo per aria. C'era per terra un tappeto di vari centimetri di questa carta qua, e abbiamo saltato, urlato, era... Io avevo la sensazione chiara e precisa di essere libera, cioè di non avere più paura, di poter finalmente dire quello che pensavo. Sapevo anche certo, che mia madre non era più in pericolo, più che altro lei. E tu cosa fai adesso? Faccio grafica, illustrazione, insegno arte nelle scuole ai bambini. Però sei un attivista, vero? Cioè di fatto continui, vai anche nelle scuole a fare attività di conoscenza e consapevolezza, giusto? Sì, quando posso, quando capita, credo che sia uno dei modi migliori per evitare che queste cose succedano di nuovo, sia che succedano qua ma in qualsiasi posto al mondo. Cioè, se noi lo sappiamo, possiamo anche dare una mano a essere molto concreti e decisi sul dire a tutti che questa roba non può capitare. Cioè, nessuno deve vivere una situazione di questo tipo. Sono le parole, sono perfette, sono semplici ma perfette. Questa roba non può e non deve più capitare. Gio, ti ringrazio davvero tantissimo per la storia e la chiacchierata. Mandacene altre, quando vuoi. Grazie, siamo qui a raccontare le linee d'ombra personale di tutti, e questa è veramente una linea d'ombra di un paese, di un'intera nazione, ma anche in realtà di un intero pianeta. Quindi è giusto raccontarle e far sapere che questa roba qui non deve più succedere. Grazie ancora davvero, Gio. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Grazie. A presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra. La storia di Roberto Kozak è ingiustamente una delle storie meno conosciute del XX secolo. Quando morì nel settembre del 2015, 5 anni fa, il mondo non sapeva quasi nulla di lui. Perfino Nikolai, suo figlio, che all'epoca aveva 24 anni, sapeva poco del lavoro di suo padre. Capì qualche cosa di più il giorno in cui assistette all'apertura del Museo della Memoria a Santiago del Cile. Mentre si svolgeva la cerimonia, Nikolai vide suo padre fissare un uomo sul lato opposto della piazza. Senza dire una parola, gli andò incontro, e quando furono uno di fronte all'altro, si strinsero in un abbraccio e cominciarono a piangere. Per Nikolai, bambino, è stata una sorpresa vedere il padre in quella veste, ma ancora di più lo è stato sentir dire dall'altro uomo: tuo padre mi ha salvato la vita. In una puntata che si intitola Caudillos, la storia di oggi è la sua. State con noi. Erano poco prima delle 10 del 1 gennaio 86 quando un gruppo di uomini armati irruppe nell'ufficio di una piccola associazione per l'inserimento dei migranti di Santiago del Cile. Intimidirono lo staff, tagliarono i fili del telefono e del computer e urlarono: chi di voi è quel figlio di puttana comunista di Roberto Kozak? Un uomo alto, con la camicia bianca, si fece avanti e disse: sono io. Dentro la stanza tutti erano convinti che da lì a qualche minuto avrebbero assistito ad un'esecuzione sommaria. Invece Roberto Kozak venne arrestato, gli venne intimato di allontanarsi dal paese. Kozak era nato il 14 maggio del 42 in un villaggio rurale nel nord-est dell'Argentina. La famiglia di suo padre si era trasferita in Argentina dall'Ucraina nel 1890, mentre sua madre era di Buenos Aires. Primogenito di 12 figli, Kozak era ancora giovane quando la famiglia si trasferì dalla routine di un piccolo paese a vocazione agricola nella città, nella metropoli, a Buenos Aires. A 9 anni iniziò a lavorare in una libreria dopo la scuola. Diventò ben presto un avido lettore, scoprendo l'ingegneria e la meccanica, oltre che la politica internazionale. E nel corso degli anni combinò il lavoro in libreria con gli studi fino ad arrivare all'università. Nel 68 Kozak trovò lavoro grazie a un annuncio su un giornale presso l'ufficio argentino di un istituto nato 20 anni prima per sostenere le persone sfollate dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo 2 anni in Argentina, Kozak viene mandato in Europa, Germania Ovest, a Londra, a Ginevra, e nel 72 accetta un trasferimento in Cile. Poco dopo il suo arrivo a Santiago, nel maggio del 72, gli fu subito chiaro che i tempi erano maturi per un colpo di Stato contro il governo di Salvador Allende. Fu così che l'11 settembre del 73 accadde, il palazzo presidenziale fu preso d'assalto, Allende assassinato e Pinochet dichiarò l'insediamento della dittatura. 11 settembre 1973. A Santiago del Cile, corpi speciali dell'esercito agli ordini del generale Augusto Pinochet abbattono con un golpe il governo legittimo di Unidad Popular, guidato da Salvador Allende, vincitore delle elezioni del 5 settembre del 1970. Allende è il primo presidente democraticamente eletto in Sud America. Il golpe di Pinochet segna l'inizio di una sanguinosa dittatura militare che durerà 17 anni. Durante il golpe, Allende si rifugia nel Palazzo della Moneda, dove verrà trovato morto. Ancora oscura rimane la dinamica della sua morte, anche se un testimone oculare sembra confermare la versione del suicidio. Per molti in Cile il golpe non arrivò inaspettato, ma quello che stupì fu la ferocia della repressione militare. Da subito Roberto Kozak si convinse di dover fare tutto quanto fosse in suo potere per salvare quante più persone possibile. Una delle sue prime mosse fu quella di stabilire rapporti di lavoro stretti con i diplomatici delle ambasciate straniere amiche. Lavorò di squadra per creare una rete di salvataggio per i dissidenti. L'asilo in Cile si comincia a produrre il mismo 11 di settembre del 73, il dia del golpe. Il manicomio in Cile inizia l'11 settembre del 73, il giorno del golpe. Conoscevo ambasciatori che avevano rapporti con alcuni funzionari del governo di Unità Popolare. Erano diventati amici. Quel tipo di relazione che si sviluppa negli anni in cui un diplomatico vive in un paese straniero, rimanendo in contatto con i funzionari del governo. E in alcuni casi si creano delle situazioni nelle quali si riesce a intravedere in anticipo il pericolo che sta per arrivare con il golpe. Come si sta sviluppando il golpe il mismo 11 di settembre del 73? Fra i diplomatici più coraggiosi ci furono un ambasciatore svedese che già durante la Seconda Guerra Mondiale aveva aiutato gli ebrei a fuggire dalla Norvegia alla Svezia, e c'era Elio Barbarani, un diplomatico italiano. Grazie al loro lavoro nell'ombra, l'ambasciata italiana intraprese una stretta collaborazione con Kozak e fornì rifugio a 750 persone in fuga dalle persecuzioni. Secondo Barbarani, il ruolo principale di Kozak era quello di accattivarsi figure di alto livello del regime di Pinochet, al fine di ottenere la liberazione dei detenuti. Una volta che un detenuto era stato rilasciato, Kozak si occupava di organizzare il viaggio all'estero, convincendo le ambasciate straniere a concedere i visti. Looking for the grace came. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye, bye, bye to all of us. Always says bye. Una chiave del successo di Kozak è stato il whisky. Notte dopo notte Kozak invitava i membri di alto livello della polizia segreta, i generali dell'esercito e i diplomatici stranieri nella sua elegante casa di Santiago. Un whisky dopo l'altro, un cocktail dopo l'altro, otteneva informazioni su dove fossero detenuti i prigionieri, faceva firmare ordini di espulsioni e avviava negoziati per i documenti di uscita. Spesso i giovani impiegati del suo ufficio al mattino avevano gli occhi gonfi per aver lavorato tutta la notte come camerieri in qualche festa che teneva Kozak. Spesso, mentre al piano di sotto Kozak riceveva funzionari militari nella sua casa, c'erano rifugiati e prigionieri politici nascosti in soffitta. Anni dopo, quando gli si chiedeva come faceva a mentire rischiando così tanto, diceva che nella vita lui in realtà avrebbe voluto essere un attore in teatro. Alle feste Kozak insisteva con gli ospiti sul fatto che la reputazione globale del Cile stava soffrendo a causa della percezione diffusa degli abusi del regime riguardo ai diritti umani. Kozak lasciò il Cile nel 91, l'anno dopo la caduta del regime di Pinochet, per andare a lavorare a Mosca. Poi si trasferì di nuovo a Ginevra e 10 anni più tardi, quando finalmente andò in pensione, decise di tornare in Cile il paese che aveva definito la sua vita e dove si sentiva maggiormente a casa. Nel 92 il Cile assegnò a Roberto Kozak la sua più alta onorificenza, l'Ordine di Bernardo O'Higgins, dal nome di uno dei leader del movimento di indipendenza del Cile. Si calcola che riuscì a mettere in salvo tra i 25 e i 35 mila uomini. Roberto Kozak morì di cancro nel settembre del 2015. Sua moglie Silvia ricorda l'ultima conversazione che ebbero. Erano in taxi verso il centro di trattamento del cancro in Argentina. Il giornale radio parlava della crisi dei rifugiati nel Mediterraneo. Lui guarda la moglie e le disse: se fossi giovane, vorrei essere lì. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare. Siamo ancora qui con Antonio Cocco e col suo tentativo di fuggire dalla legione straniera. Linee d'ombra. Di momenti di speranza nelle lettere di Antonio Cocco ce ne sono stati diversi, ma nessuno è stato come quello che stiamo per raccontarvi. Quello di oggi è davvero un momento che ha uno scarto, perché finalmente parla con delle persone, parla con dei ragazzi italiani che hanno un'esperienza di liberazione, letteralmente, e quindi lui è letteralmente euforico e scrive al padre, sembra di essere lì con lui, perché dice: sono qui accanto a me, stanno leggendo quello che ti scrivo, loro verranno riformati. Insomma, c'è un'ebbrezza e c'è una febbre in quello che dice Antonio Cocco in queste lettere, che sono tutte da godersi. Quindi mettetevi comodi, continuiamo a raccontare la sua storia, stiamo con lui, andiamo in Algeria e vediamo che cosa accade, ma soprattutto quali sono le sue speranze. Orano, 10 settembre 1952. Carissimo papà, ho proprio qui vicino a me un siciliano di 19 anni che sta per essere rimpatriato perché non ha ancora 20 anni. Non basta, qui ce ne sono altri 5 vestiti tutti da civile e che domani prendono il bateau e partono per Marsiglia. Uno ha solo 17 anni, tutti gli altri superano i 18. Mi ha spiegato che sua madre ha fatto domanda al Ministero della Guerra perché è minorenne affinché venga rimpatriato. E difatti domani se ne va. Ora penso che tu questo l'abbia già fatto, ma non vorrei ti fossi basato su quello che consoli o autorità varie t'hanno detto. Devi fare la richiesta lo stesso e se insisti, da quello che mi han detto, ce la fai. Tu penserai che sono un povero fesso e che arrivo con l'ultima perché tu l'avrai già fatto, ma mi hanno tanto parlato che mi sono convinto a scriverti comunque. Eppure accidenti, è qui vicino a me, legge quello che ti scrivo, ha 19 anni e viene rimpatriato, di qui non si scappa. Aggiunge inoltre che sua madre ha avuto anche lei in un primo momento risposta negativa, ma che a forza di insistere c'è riuscita. Vedi, per la riforma è più complicata la faccenda, perché se tu mi richiedi, sei in obbligo di pagare la prima che mi hanno dato, rimborsare insomma le spese che hanno avuto, mentre se sono proposto per minore età, a loro non spetta nulla, capisci? Oltre all'età giovane, c'è anche male al cuore e l'asma, tutte cose che mi potrebbero dare una mano. Ti garantisco, papà, che non t'avrei scritto se non avessi parlato io stesso con questi liberabili. E cosa vuoi, quando ho sentito i loro discorsi e li ho visti ben vestiti da civile, mi sono deciso a scriverti. Qui sto proprio benone e non ho affatto intenzione di andarmene tanto presto. Domani marcherò visita per i denti, così rimarrò qui un'altra settimana. Ho assistito ieri sera alla festa degli arabi e dei neri, qualche cosa di fantastico. E questa sera spero di tornarci, se non sono di guardia. La malora è che qui non ricevo lettere perché non so quanto ci rimarrò. State bene a casa? Anche mamma? Spero di sì. Un abbraccio. Tony. 12 settembre 1952. Orano. Carissimo papà, sono ancora qua e credo ci rimarrò ancora per un pezzo perché ho trovato lavoro. Devo disegnare per il tenente. Senti papà, ho parlato anche con detto tenente italo-francese. Lui mi ha garantito che se una madre, ha detto che è meglio la mamma, assieme al consolato francese in Venezia, fanno richiesta di rimpatrio al ministro della guerra, in un mese o due al massimo sono a casa. Bada che gli ho provato a dire che tu l'hai già fatto, ma lui si è arrabbiato e ha detto che è impossibile e che non si stia a badare alla risposta di chi che sia. Bisogna fare la domanda direttamente a lui. Ha aggiunto poi che se gli dici che sono anche malato d'asma e di cuore, sarò certamente rimpatriato. E ogni volta mio padre arrivava a casa la sera, non a mezzogiorno, e tutti si aspettava l'arrivo di mio padre. A lui piaceva arrivare a casa e trovarci tutti seduti a tavola in ordine, nell'ordine suo. Io ero a capo tavola vicino a lui e tutti si aspettava che avesse qualche lettera di Tony. Poi sapevamo che lui ce l'avrebbe letta a tavola. E siccome capitava spesso, anche più di una volta alla settimana, che ricevesse lettere da Tony, mi ricordo che l'arrivo di papà era sempre atteso con una certa speranza che avesse qualcosa da leggerci. Ho chiesto allora a Gianni di leggermi un brano del diario del padre, dove racconta proprio dell'attesa delle lettere. Da una decina di giorni non ricevo lettere da Antonio. Ogni volta che vengo in ufficio ho la speranza di trovare un suo scritto, ma nulla. Speranza ed anche timore. Timore di ricevere cattive nuove, non da lui, ma da tutte quelle brave persone che ho interessato. Quando mi porto una lettera non riesco a frenare il cuore. Il pensiero è sempre fisso là, anche quando lavoro. Forse tu ne avrai le scatole piene di queste mie storie, papà, ma un tenente è un tenente e quando dà un consiglio, e anche se aspettavi qualcosa di meglio da questa lettera, cerca di capire il mio stato d'animo. Ti ringrazio dei soldi, mi hanno tirato su di morale e anche le due ricette credo mi serviranno. In quanto a visita e riforma credo di averti detto tutto bene. In caso non ti fosse arrivata l'altra, te lo scrivo un'altra volta. T'abbraccio, Tony. Grazie ancora a Mauro Pescio, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni che assembla tutti i pezzi insieme. Io adesso do la linea al GR e voi continuate ad ascoltarci in podcast, insomma mantenete il contatto con noi, le storie creano un piccolo circolo virtuoso da cui è meglio non uscire perché danno una certa energia, danno una forma di sollievo e quindi mandatecele le storie, le vostre linee d'ombra a lineedombra@radio24.it. Ci sentiamo domani per raccontare storie che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!